E allora, in diretta con Atti e Misfatti, l'agenda del martedì autogestito da femministe e lesbiche, come annunciato abbiamo al telefono Paola Staccioli. Ci senti, Paola? Sì, ciao e buonasera a tutti. Ben ritrovata su queste frequenze. Tu questa mattina hai fatto già uno spazio, insomma, sul tuo libro, in particolare sull'iniziativa del 30 alla SNIA, di cui poi appunto parleremo. Sì. Senti, vabbè, la prima cosa che ti volevo chiedere è innanzitutto, appunto, il tuo libro è Non per odio ma per amore, storie di donne internazionaliste, racconti insieme ad Heidi Giuliani, sei storie appunto di donne di cui poi adesso parleremo. E vabbè, la prima domanda è come nasce questo libro, questa collaborazione con Heidi Giuliani, poi lo ricordiamo c'è anche una prefazione di Silvia Baraldini. Sì, è la casa editrice, ricordiamo anche quella, è Derive a Prodi. Sì. L'idea del libro è nata perché, cioè, da tempo io avevo una storia che volevo narrare, una storia che premeva per essere narrata, che è la storia di Barbara Kistler, una compagna di Zurigo che io ho conosciuto qui a Roma negli anni 80. L'ho conosciuta nell'ambito dell'attività politica, nell'ambito dell'attività di solidarietà che si faceva allora nei confronti dei prigionieri politici contro la repressione in tutta Europa, e quindi c'erano anche per esempio degli incontri internazionali e quindi capitava di conoscere anche dei compagni, delle compagne, certo, di altri paesi. Poi Barbara, insomma, io ho continuato a frequentarla finché lei ha poi fatto una scelta, la scelta di andare in Turchia. Una prima volta nel 91 è stata arrestata e torturata, torturata per giorni e giorni e tenuta in carcere poi per 7 mesi, uscita dal carcere è tornata, poi è stata espulsa dalla Turchia, è tornata a Zurigo e poi dopo un po' di tempo ha deciso di ritornare in Turchia a combattere con il braccio armato del Partito Comunista Turco Marxista-Leninista, e lì poi è stata assassinata, uccisa in uno scontro a fuoco fra i guerriglieri e l'esercito turco. E questa storia da tempo io volevo narrarla, ho cominciato a scrivere i ricordi, insomma i ricordi che mi univano a Barbara, e nello scrivere questa storia ne ho incontrate altre, storie di donne storie di donne occidentali che hanno scelto di abbandonare quella che era una propria vita oggettivamente privilegiata, insomma, per andare a lottare oppure combattere in altri paesi, cioè lasciare tutto per la rivoluzione, per la liberazione di altri popoli, lotte di altri paesi che loro sentivano però in qualche modo come proprie, tanto da mettere in gioco proprio tutte se stesse. E infatti poi c'è un punto che accomuna tutte queste storie, che la fine drammatica, diciamo, tutte queste donne sono state poi assassinate o sono morte comunque nei paesi in cui sono andate a lottare o combattere. Io conosco Heidi da anni e sapevo che anche lei aveva una storia a cui teneva molto e che ogni tanto riprendeva, arricchiva, però poi non riusciva, come dire, a tirarla fuori e quindi a decidere di pubblicarla. E allora ne ho voluto parlare con lei, poi sarà lei forse a parlare di questa storia, comunque la storia di Elena Angeloni che viveva a Milano e nel 1970, quando in Grecia c'erano i colonnelli, c'era la dittatura, ha deciso di partecipare insieme ai compagni della resistenza greca a un'azione contro l'ambasciata statunitense per denunciare la dittatura dei colonnelli, ma per denunciare anche l'appoggio poi che gli Stati Uniti davano a questa dittatura. C'è stato un errore tecnico e comunque la macchina dove loro erano è saltata, e quindi Elena e un compagno cipriota, un giovane compagno cipriota, sono morti. Elena perché Heidi era così legata a Elena, la conosceva bene perché era la ex moglie del fratello di Heidi, e quindi Heidi aveva appunto questa storia di Elena che voleva narrare, e allora ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare questo libro insieme. Piano piano sono nate altre storie e quindi ne sono venute fuori sei praticamente. Sì, il libro poi tra l'altro è molto interessante perché ha una parte narrativa, seppure basata su biografie appunto reali, e poi ha delle schede anche di, diciamo, cronologia e biografia a sì, parte. Perché, appunto la parte centrale del libro, diciamo, è di narrativa, cioè sono sei racconti basati tutti su fatti reali e che però hanno anche, diciamo, delle invenzioni o comunque necessariamente hanno delle interpretazioni. Certo. Poi di chi scrive un libro che racconta passioni, sensazioni, e quindi è chiaro che poi nel momento in cui si scrive ci si mette anche del proprio, ovviamente. Sì. Però proprio per questo poi abbiamo deciso, anche perché e soprattutto per i più giovani, poi per far comprendere il perché della scelta di queste donne, abbiamo voluto anche mettere alla fine delle schede storico-biografiche che parlano della vita di queste donne, ma le inseriscono la loro scelta e le loro lotte all'interno poi del contesto in cui si sono verificate. Le certo. Storie vanno, lo ricordo, dagli anni 60 del Novecento. La prima storia è quella che forse è più conosciuta, che è quella di Tamara Bunke, Tania la guerrigliera, che si è unita alla spedizione di Ernesto Che Guevara in Bolivia, e lì è stata poi assassinata nel 1967. Fino all'ultima storia, che invece è una storia molto più recente, che è del suo epilogo nel 2003, ed è la storia di Rachel Corrie, che è una giovane militante pacifista statunitense che con altri attivisti dell'ISM, cioè l'International Solidarity Movement, partecipa ad azioni di resistenza non violenta, cioè di interposizione della striscia di Gaza. Lei il 16 marzo del 2003 viene uccisa, schiacciata da un bulldozer dell'esercito israeliano mentre cercava con il suo corpo di impedire, armata soltanto di un megafono, la demolizione a Rafah di una casa palestinese. Eh sì, tra l'altro ricordiamo che proprio quest'anno ad agosto la Corte di Giustizia di Haifa israeliana. Non sento più. Dico, tra l'altro ricordiamo che la Corte di Giustizia di Haifa, proprio nell'agosto di quest'anno, la Corte di Giustizia israeliana ha assolto l'esercito per questo. Se l'è cercata praticamente, era la sostanza. Ed è interessante questo filo rosso che appunto un po' unisce gli anni 60, 70 e riesce ad arrivare fino ai giorni nostri, insomma, lo trovo abbastanza così utile anche per chi oggi si trova a ragionare, insomma, se non altro di internazionalismo che non va più tanto di moda. Però voi avete organizzato un'iniziativa che proprio si chiama Amor Revolucionario, sì. L'internazionalismo necessario. Sì, ma appunto proprio, cioè, vorrei dire che anche le storie comunque che sono un po' più vecchie, diciamo, negli anni, che partono appunto dagli anni 60, sono comunque storie passate nel tempo, ma che noi vogliamo poi in qualche modo rileggere per capire come ci possono servire oggi, come ci può servire oggi questa nostra memoria per fare qualcosa oggi e nel futuro. E proprio per questo appunto abbiamo deciso di fare questa presentazione del libro, non soltanto come appunto presentazione o lettura di testi, ma come iniziativa politica, insomma, più generale, anche di spettacolo. Ci sarà venerdì prossimo, venerdì 30 novembre, al centro sociale occupato autogestito ex SNIA in via Prenestina 173, dalle 18:30. Alle 19 inizierà diciamo la presentazione vera e propria, in cui ci saranno delle letture, dei video, insomma, deve essere una cosa, cerchiamo di fare una cosa che sia il più possibile coinvolgente e meno noiosa possibile, e quindi con letture e video del libro, ma ci saranno anche poi degli interventi. Allora, a parte ci siamo io e Heidi, chiaramente, come autrici del libro. ci sarà Silvia Baraldini, che come hai ricordato all'inizio è autrice della prefazione, ci saranno le compagne e i compagni della ex SNIA, ci sarà Italo Di Sabato dell'Osservatorio sulla repressione, che promuove insieme al centro sociale l'iniziativa, proprio perché noi crediamo che insomma sia importante riflettere sia sulle forme di internazionalismo, ma anche sul fatto che oggi esiste sempre ed è sempre più chiara poi una strategia globale e internazionale di attacco alle condizioni di vita e di repressione di chi lotta e di chi resiste, e quindi appunto interverrà Italo Di Sabato per l'Osservatorio sulla repressione, verrà un compagno appositamente dalla Grecia, Tassos, che tra l'altro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio conoscono sicuramente perché interviene, insomma è intervenuto alla radio, e poi una compagna, un attivista della rete italiana dell'ISM. Finita questa, cioè la presentazione, questi interventi, ci sarà una prova, diciamo, vogliamo fare un'iniziativa un po' particolare, che è una cena dibattito, cioè una cena a buffet con tutti appunto i partecipanti, questi nomi che ho detto finora. Il titolo è un po' ambizioso perché è un confronto sulle possibilità di connettere e sostenere i percorsi di lotta e globalizzare il conflitto. Però in realtà questa cena dibattito a sottoscrizione vuole essere qualcosa di molto informale, in cui tutti poi possono riuscire a intervenire, fare qualche domanda e cominciare appunto a lanciare delle ipotesi, se non altro, sulla possibilità appunto di connessione delle lotte nei vari paesi. Poi il programma prosegue per tutta la serata, ci sono due narrazioni, la prima narrazione di e con Alessandro Pera alle 22, che ha il titolo Ehi tu, il lato cattivo di Ernesto Guevara, un titolo che forse può sembrare un po' strano, ma che insomma comunque vuole riportare, diciamo, mentre il CE è diventato, poi lo ritroviamo sugli accendini, lo ritroviamo sulle magliette e forse meno sappiamo, invece ricordiamo poi il suo ruolo di rivoluzionario, di militante combattente rivoluzionario, e quindi proprio questo vorremmo poi far conoscere soprattutto ai più giovani in questa narrazione. La seconda è sempre legata appunto a una delle donne del libro, che è Tania La Guerrigliera, ed è una narrazione di Attrice Contro con Antonio Carboni alla chitarra. Segue poi il concerto dalle 22:30, ci saranno Ginko e Acoustic Impact con McShark, The Face e Woofer. E vorrei ricordare comunque, cioè, mi sembra importante ricordare che tutti questi artisti, questi cantanti, che pure insomma sono cantanti che tutti conosciamo, vengono gratuitamente, cioè danno il proprio contributo gratuito a questa iniziativa. Bene. A seguire poi dopo il concerto ci sarà una dance hall con Dubass Sound System e Sista Maria fino alle 2:30. Questo è il programma molto ricco di venerdì 30 novembre dalle ore 18:30 al centro sociale occupato autogestito ex SNIA in via Prenestina 173. Benissimo, in questa occasione si presenterà, e lo ricordiamo, il tuo libro, Paola Staccioli, insieme a Heidi Giuliani, Non per odio ma per amore, storie di donne internazionaliste, edito da Derive a Prodi. Avete già parlato male questa mattina della copertina, quindi non magari ripetiamo, però sì, la copertina forse non rende giustizia a diciamo il discorso che facevi prima, per esempio sulla cattiveria del CE, forse va recuperata anche sulle donne, insomma, saperle capaci di essere. Sì, guarda, anche... noi vabbè, le copertine sono scelte editoriali delle case editrici, sì, come sappiamo. La donna della copertina si copre il volto, le donne del libro, a mio avviso, guardano in faccia la realtà. Ma sì, al limite cambiano nome le donne del libro ogni tanto, in qualche occasione. Sì, però insomma, sì, appunto, guardano dritto in faccia, sì, la realtà e l'affrontano, e queste sono le donne che noi abbiamo voluto narrare. Però insomma, se il libro poi le apriamo, al di là della copertina, certo, che comunque in sé è bella, troviamo appunto i contenuti di queste donne che la realtà l'hanno guardata in faccia. Benissimo, Paola, noi ti ringraziamo moltissimo, vediamo se c'è tempo di chiamare Heidi e farci raccontare, ecco, un po' anche da lei, se no, come già detto, insomma, poi non c'è stato tempo, ma tu sei autrice anche di altri libri, non è il primo che pubblichi, quindi ci piacerebbe invitarti anche un po', con un po' di calma qui negli studi del martedì, perché poi i tuoi libri hanno protagoniste femminili sempre interessanti, insomma. Mi hanno protagoniste femminili, ma poi c'è anche un libro proprio dedicato alle 101 donne sì. di Roma. Sì, infatti, questo magari lo citiamo, le famose pubblicazioni, 100 luoghi da vedere, eccetera. Tu ti sei inserita in questa collana con questa pubblicazione strategica di cui sì, volentieri parliamo quando, insomma, tra tutte noi troviamo un momento per farlo, senz'altro. Va bene. Grazie, allora, Paola. Allora ci vediamo il 30 all'ex SNIA Viscosa a partire dalle 18:30. Il programma si può consultare anche in rete e comunque, insomma, è molto denso. Va bene, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo il 30. Sì, un abbraccio. Ciao. Ciao.